Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Digitalizzare il mondo delle costruzioni è uno dei più importanti obiettivi che si è data l'Europa con la nuova direttiva appalti, la direttiva 24 del 2014, che ora, come sempre accade, è in attesa di essere recepita dai paesi membri dell'Unione affinché diventi legge vigente nei singoli stati. Naturalmente la digitalizzazione non può che partire dal progetto e perciò tra le novità previste c'è l'introduzione del BIM, Building Information Model, per la progettazione delle opere pubbliche. Si tratta di uno strumento informatico oggi ancora poco diffuso tra i progettisti, che invece diventerà fondamentale anche perché promette grandi benefici. Ne parliamo con Alberto Pavan, che è ricercatore del Politecnico di Milano, coordinatore del tavolo UNI, dove si stanno scrivendo le regole tecniche. La norma UNI che verrà prodotta detterà in pratica le regole effettive della digitalizzazione nel settore delle costruzioni e dell'uso del BIM in Italia. Eccoci qua, Alberto Pavan, buonasera. Buonasera Melissa, a lei e ai suoi radioascoltatori. Allora, intanto ci spieghi un po' che cos'è questo BIM, che cosa cambia rispetto alle tecniche di progettazione attuali con questo strumento più sofisticato. Ma il BIM è un cambio non solo di strumenti, ma di mentalità e di approccio. Sicuramente negli strumenti, passando da il CAD che tutti conosciamo, quindi da una gestione di linee a cui noi associamo un significato, due linee vicine per noi ingegneri e architetti possono essere un muro, a una progettazione ad oggetti per cui il software stesso sa che quell'oggetto è un muro, quindi è un muro georeferenziato con degli spessori, con delle proprietà termiche, con dei tempi di costruzione e quant'altro, quindi una realtà virtuale di quello che verrà poi effettivamente costruito. Cioè, da una parte c'erano degli strumenti di disegno informatico, sì, mentre questi sono dei modelli quasi fisici della realtà che poi si andrà a costruire, no? In cantiere. Sì, si anticipa la costruzione in modo virtuale. In modo virtuale, perfetto. Ecco, che benefici porta l'adozione di questi strumenti? Ma sicuramente il primo beneficio enorme è la trasparenza. Tutti i dati vengono a questo punto centralizzati e sono leggibili da parte di tutto, e poi si comporta un enorme risparmio di tempi. I problemi di cantiere vengono anticipati prima, certo, nel modello virtuale, quindi non li troverà mai più in cantiere, e soprattutto in fase di manutenzione e gestione il grosso cambiamento sarà che tutti gli oggetti si portano dietro le informazioni, quindi io muro so quando sono stato costruito, di cosa so sono fatto. Ecco, una cosa che mi colpisce sempre è che non compreremo mai un cellulare da 50 euro senza libretto delle istruzioni e garanzia, mentre compriamo case da centinaia di migliaia di euro e non sappiamo cosa c'è dentro i muri. No? Sì, invece no, il muro lo sa, cioè nel senso che nel progetto virtuale lui sa dove sono i tubi, chi l'ha fatto, chi l'ha costruito. Ti può anche informare, guarda che i tubi che sono dentro di me ormai hanno passato i 20 anni, sì, quindi ora che pensi a sostituirli e così via. E cose di questo genere. Sì. C'è una cifra con la quale per esempio possiamo dare un'idea di quanto si risparmia in termini di manutenzione mediamente quando si hanno questo tipo di conoscenze, che è un tema fondamentale per nella pubblica amministrazione, no? E gli appalti pubblici. Su calcoli americani sono circa 2 euro a metro quadrato annuo, che per il nostro volume di produzione italiano significa risparmiare, solo per il fatto di conoscere le informazioni, qualcosa come 500 milioni di euro all'anno. Senta, chi ha recepito finora tra i paesi europei la direttiva sulla digitalizzazione? Come siamo messi in Italia? Sicuramente l'Inghilterra, che è avanti, 2016 gli appalti pubblici. E avanti col recepimento, perché invece la sua, diciamo, edilizia non è affatto, diciamo, di punta. No, l'edilizia è molto indietro, però ha recepito la volontà questo. No, la volontà no, perché ha recepito questo non come problema edilizio, ma come problema di politica industriale, cioè ristruttura tutto il settore delle costruzioni, sì, su queste nuove tematiche. Quindi vuol dire per loro aver ipotizzato più 50% di esportazioni. Quindi l'Inghilterra sicuramente molto avanti, Francia e Germania, Italia? Settimana scorsa Spagna, Italia in realtà molto avanti come normativa tecnica, come al solito è un problema di sistema paese. Cioè voi potete scrivere quello che vi pare, ma finché il governo non recepisce la direttiva non diventa una legge, quindi serve a poco. Come serve mai poco. Sempre questa lentezza pazzesca nel settore delle costruzioni per recepire cambiamenti, novità, cose del genere, più che in altri settori? Allora, a pensare male, il primo vantaggio che abbiamo detto è l'assoluta trasparenza. Ecco. E quindi questo già potrebbe essere un cattivo segno. Detto ciò, c'è una difficoltà, perché abbiamo imprese molto piccole, poco capitalizzate, e anche dall'altra parte studi professionali molto piccoli, poco capitalizzati e poco strutturati. Qui non è solo compro un nuovo strumento di lavoro, è proprio un modo di pensare completamente diverso che prevede una strutturazione completamente diversa. Va bene, grazie. Grazie Alberto Pavane, buon lavoro. Grazie mille anche a lei. Ci fermiamo qui, come sempre ci diamo appuntamento a domani.